versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:07 primi e 37 secondi in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Oscar Giannino, come sempre. Vi dico subito che oggi parleremo delle tasse sull'ambiente nel nostro paese. Quante sono? Quanto incassa lo Stato? A cosa le destina? E soprattutto chi le paga, tra famiglie, imprese, eccetera, eccetera. Lo spunto è un rapporto che è stato curato dall'Ufficio Valutazione Impatto del Senato e oggi Repubblica dedica una pagina intera ai dati di questo rapporto. È Corrado Zunino di Repubblica a firmare l'articolo con tanti numeri, una bella tabella, a pagina 4 di Repubblica. E vi dico subito che stiamo parlando di uno studio fatto sul gettito tributario del 2013, quindi anni fa, ma nel 2013 le imposte a vario titolo riconducibili all'ambiente nel nostro paese, quindi le accise, le imposte sulle auto, le emissioni, eccetera, eccetera, superavano i 53 miliardi di euro. Vedrete che è interessante capire chi paga quanto e a che cosa viene destinato, perché per esempio vedrete che secondo i numeri di questo rapporto in realtà solo l'1% di questi 53 miliardi incassati dallo Stato con le tasse ambientali viene poi speso davvero per l'ecologia e l'ambiente. Però questo è il tema di cui ci occupiamo. Nel frattempo io però, come è una giornata ricchissima di avvenimenti e notizie, mi limito a due notizie a mio giudizio di un rilevante impatto. La prima è una notizia che io temevo di dover annunciare, lo temevo visto l'atmosfera di crescente durezza e violenza anche del dibattito pubblico nel nostro paese. Ebbene, il segretario della FIM CISL, Marco Bentivogli, è stato su decisione e valutazione delle prefetture di Roma e di Ancona, da domani diventa scortato a seguito di reiterate minacce alla sua vita. Il segretario della FIM CISL Bentivogli, spesso ospite a questi microfoni e spesso ospite mio anche, è uno di coloro che più si battono per un'interpretazione del ruolo del sindacato che guida, del sindacato più in generale, quindi non solo nelle vicende dei meccanici su partite importantissime come quella dell'ILVA, ma non solo l'ILVA, ma per una visione del sindacato in generale nella trasformazione del mercato, dell'economia italiana e nel mondo, accentuatamente riformista e non antagonista. È diventato in questi ultimi anni un, tra virgolette, protagonista del dibattito economico del nostro paese. Non si tira mai indietro per dichiarazioni, prese di posizione che uniscono, come nella tradizione della CISL, una fiera rivendicazione di un'economia della compartecipazione nelle aziende con una visione però moderna della trasformazione, dell'interpretazione del ruolo del sindacato insieme alle imprese, mai in maniera caudataria, ma in maniera iperriformista, contro coloro che vogliono tassare i robot, contro coloro che fanno i decreti impugnativi della riconversione ambientale ILVA, gli amministratori locali della Puglia, mettendo a rischio il fatto stesso che ci sia un investitore come ArcelorMittal che se ne potrebbe andare. E su tantissime partite molto importanti Marco Bentivogli non si tira indietro. Ecco, il fatto che la durezza delle polemiche italiane spinga pazzi, estremisti di tutti i tipi poi a indirizzare minacce di morte verso una persona come lui, a me non è che rattrista, mi addolora, mi preoccupa molto, perché penso che nel nostro paese, io lo dico esclusivamente come giornalista, la memoria dei tanti riformisti che hanno pagato con il sangue le proprie battaglie dovrebbe essere sempre ben presente a noi tutti. È un appello vano quello di moderare i termini, me ne rendo conto, però quello che si vede, chiunque come me abbia 2 ore di diretta al giorno, finché l'editore, lo ringrazio, mi darà la fiducia di farlo, è che nelle reazioni di pancia nella durezza delle reazioni che anche molti di voi hanno e non le avevate anni fa, c'è una cifra preoccupante della convivenza civile del nostro paese. Intanto un abbraccio da parte mia a Marco Bentivogli, a tutti i suoi, a tutti coloro che pensano che non si debba essere esposti a rischio di vita per tentare di far valere le proprie idee con misura ma con decisione. E questa è la prima notizia. La seconda notizia esce dalla commissione parlamentare di inchiesta sugli scandali bancari, e ne vedrete l'evidenza domani sui giornali, ma le sentirete già nelle edizioni dei giornali radio, a cominciare dal nostro e dei telegiornali stasera. La guida della Consob Vegas nella sua audizione oggi ha dichiarato di aver incontrato due o tre volte, una volta anche a casa sua, oltre che alla Consob, e una terza a Roma, il ministro Maria Elena Boschi, che lo incontrava per parlare delle sue preoccupazioni sulla Banca Etruria, avviata, così sembrava, anche se Banca d'Italia ieri Barbagallo l'ha smentito, alla fusione, all'acquisizione da parte della Popolare di Vicenza. È evidente che la dichiarazione del presidente della Consob Vegas interviene su una materia già incandescente per via delle polemiche in questi mesi rispetto a ciò che scrisse Ferruccio De Bortoli, ve lo ricordate, il ministro disse che lo avrebbe querelato, siamo arrivati dopo molto tempo a invece una denuncia in sede civile. Molte forze politiche sono subito insorte chiedendo le dimissioni della Boschi, perché la Boschi in Parlamento aveva rilasciato delle dichiarazioni di altro tenore. È un altro passaggio molto importante e molto delicato. Io mi limito semplicemente a dire che un ministro, se è un padre amministratore, per questione di opportunità questi interessi non li doveva avere. È chiaro che ogni uomo politico e membro di governo era preoccupato per le vicende bancarie, ma lì c'era una questione di inopportunità personale. E comunque il presidente della Consob oggi ha aggiunto un carico da 11 a questa questione, e vedremo quali sviluppi avrà. Vi invio anche per questo subito dopo a Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Allora, andiamo intanto ai numeri di questo rapporto delle tasse ambientali curato dall'ufficio valutazione d'impatto del Senato, e lasciatemi dire che noi avremo bisogno nel nostro procedimento legislativo in maniera ordinatoria sia di valutazione ex ante di ogni misura, sia di valutazione ex post della loro attuazione. Quando riusciremo a piegare la politica al fatto che misure fiscali, misure ordinamentali di politica economica, industriale, di ogni tipo, non vanno decise per pura discrezionalità politica, ma vanno decise solo alla luce di un corredo di dati e di analisi dell'impatto che possono avere sull'economia nazionale, sull'utilizzo delle risorse, sugli occupati, incentivi e disincentivi, gli effetti sono positivi e negativi di ogni misura, come è ovvio, allora noi avremo sicuramente un procedimento di costruzione delle norme nel nostro paese non solo più trasparente, ma soprattutto da giudicare in base alla sua efficacia. Lo si fa prima, poi la politica decide quello che vuole, e lo si fa dopo. Dovrebbe essere una, tra virgolette, maniera, non voglio parlare di riforme, ma una maniera di interpretare correttamente le decisioni da assumere nel nostro paese. È lo stesso criterio con cui si assumono le decisioni del resto in ogni impresa. Voi mi potreste dire, ma la politica non è l'economia. Avete ragione, non ho nessuna intenzione di dire che l'Italia è un'impresa, ma resta il fatto che scopriamo incessantemente che misure che vengono assunte con degli obiettivi, quegli obiettivi non sono minimamente in grado di raggiungerli, che magari se sono misure fiscali il gettito che si prefiggono non viene raggiunto mai, e che invece poi restano tutte le conseguenze negative che erano state sottaciute, che erano state non comprese probabilmente o addirittura del tutto ignorate. Ecco, la realtà è complessa e forse va studiata con i numeri. Che cosa ci dice questo dossier? Ci dice appunto che nel 2013 l'insieme di tutto il gettito derivante da imposte, tasse, accise di natura ambientale era appunto pari al 3,2% del prodotto interno lordo nazionale. Siamo più o meno su un 8% del gettito complessivo, ma stiamo sempre parlando di 53,1 miliardi. Seconda acquisizione molto importante. Il dossier valuta chi paga quanto rispetto al contributo che dà alle emissioni e manomissioni ambientali. E che cosa si scopre? Si scopre che di questi 53,1 miliardi le famiglie pagano il 70% di tasse in più rispetto all'inquinamento che producono. Mentre, dice Corrado Zunino, lo sto quasi testualmente leggendo da Repubblica, pagina 4 di Repubblica, mentre le imprese nel loro complesso versano il 26% in meno delle loro esternalità negative, cioè dei costi esterni ambientali che va ricondotto a loro. L'agricoltura addirittura versa sul totale di questi 53,1 miliardi il 93,4% in meno delle conseguenze ambientali dei propri processi di trasformazione produttiva. Quindi le famiglie italiane pagano, inquinano più o meno per 16,6 miliardi, l'apparato produttivo il doppio, 33,6 miliardi, ma i cittadini, a fronte dei 16,6 miliardi stimati di maggiore inquinamento, pagano 28,2 miliardi di imposte. Le imprese, 33,6 miliardi di esternalità negative, pagano 24,8, e questa, dice Zunino, è la prima sperequazione dell'agricoltura, già vi ho detto. L'altra questione tra le tante in questo dossier che viene approfondita è il fatto che in realtà a fini ambientali poi di questo gettito non sono tasse di scopo, a dire la verità, quindi non sono direttamente collegate nel loro monto complessivo o individualmente da sole al reimpiego a fini ambientali. Però certo che solo l'1% di questi 53,1 miliardi finisca ad alimentare interventi in conto capitale o spesa corrente a fini di tutela ambientale, devo dire che io stesso sono rimasto abbastanza allibito, a dire la verità. Quali sono le maggiori componenti che determinano gli effetti nocivi sull'ambiente, dell'ambiente, delle produzioni? Abbiamo detto 2/3 sono le imprese, 1/3 le famiglie. Naturalmente bisogna poi non dimenticare le altre voci. Il riscaldamento domestico è stimato in quasi 10 miliardi di impatto negativo, i trasporti 7 miliardi di impatto negativo, e qui ci sono due delle scelte che rimangono ancora aperte nella strategia energetica nazionale che è stata adottata dopo un'ampia consultazione dall'attuale governo Gentiloni e che costituisce la base nella prossima legislatura per le scelte che bisognerà adottare in vista del vero e proprio vincolante piano energetico, perché queste due componenti, cosa fare sull'antico e vetusto parco delle vetture circolanti nel nostro paese, quasi la metà è anteriore a Euro 3, e che cosa fare nelle grandi aggregazioni urbane, in particolare per le polveri sottili, per migliorare drasticamente l'impatto energetico e ambientale del vetusto, a propria volta parco immobiliare italiano, sono due delle grandi scelte. Ce ne sono anche altre, per esempio se decidere o meno, per esempio il phasing out, la chiusura totale degli 8 gigawatt di potenza riconducibile a generazione a carbone nel nostro paese, se limitarsi entro i primi anni del 2020 a tagliarne, a chiuderne 2 gigawatt o in scala poi fino a 8, naturalmente i costi per esempio dell'uscita da quegli 8 miliardi sono stimati nella strategia energetica fino a 20 miliardi di euro di maggiori investimenti che bisogna realizzare per sostituire quella capacità di generazione. Ma fermiamoci qui fino a questo po' di numeri, per così dire, per tentare di capire da questa disaggregazione, dopo aver stimato però una cifra molto ingente, disaggregazione della quota parte di contribuzione dei maggiori soggetti, famiglie, imprese, imprese industriali, agricoltura, che cosa ne possiamo dedurre? Perché poi ci sono anche delle proposte che vengono fatte alla fine in questo rapporto. Allora, abbiamo due ospiti per parlarne. Il primo è Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie. E Francesco Ramella, che è un fellow dell'Istituto Bruno Leoni, che segue queste questioni. Buon pomeriggio, Ramella. Buon pomeriggio a voi. Allora, Tabarelli, questa aggregazione innanzitutto, per come è fatta, è corretta secondo lei? Entriamo, sì, perché è corretta nel senso che si fanno molte assunzioni quando si mettono insieme queste tasse ambientali in tutto il mondo, ma in particolare in Europa, in tutto il mondo no, in paesi OCSE, ma soprattutto in Europa dove la tassazione è molto alta storicamente e in particolare quella da energia, perché è quello il bene che è più rigido, ci si accorge adesso dopo molti anni di aumento delle tasse, cito solo quello della benzina che è clamoroso, ci si accorge che le entrate principali, escludendo l'IVA e la tassazione sul reddito, sono sull'energia che ha delle esternalità ambientali. E perciò si fanno tutte queste assunzioni, si arriva a questo valore superiore ai 50 miliardi, il grosso è relativo all'energia, i prodotti sono consumati in specifici settori e allora è relativamente facile fare questa aggregazione. Ricordo che gli ultimi dati che abbiamo noi per il 2015 parlano di un 3,6 del PIL, e pongono l'Italia uno dei primi posti in Europa per tassazione ambientale, anche perché per tradizione noi, perché abbiamo una grande spesa pubblica e un grande deficit, quando non si sa che cosa fare si aumenta le accise sulla gente. Poi dopo c'è chi dice che arriva la guerra in Abissinia, che non è vero, però questa è la soluzione. Questo momento di freddo, con tutta la confusione che c'è stata anche sul gas in questi giorni, vale ricordare che noi nel riscaldamento abbiamo il prezzo del gas più alto in Europa perché abbiamo la tassazione più alta in Europa, perché dovevamo fare una tassazione simile a quella del gasolio riscaldamento per problemi di contrabbando. E pertanto noi, sotto questo profilo, siamo molto virtuosi, perché la maniera migliore per danneggiare l'ambiente, come emerge da questi studi tipo quello che citava lei, è sempre quello di ridurre i consumi, e lo strumento più efficace è quello di aumentare i prezzi, e noi possiamo avere questo vantaggio, questo primato di avere i prezzi più alti grazie alle tasse, cosa che invece secondo me, con una riflessione più attenta, è invece sintomo di povertà, di una spesa disordinata e di andare a penalizzare tantissima gente, ripeto, adesso faccio un po' di retorica, mi scuso, ma c'è tantissima gente, molti pensionati adesso, che fanno fatica, o anche non pensionati, con le bollette d'inverno a pagare il riscaldamento, che è un bene primario invece, che in molti altri paesi, senza andare in Russia che lo regalano il gas lì, ma qua in Europa, in Nord Europa, costa molto meno perché è un bene primario. E invece niente, pertanto succede che, se non altro, ecco, possiamo essere contenti che sotto il profilo ambientale non facciamo danno, però esagero, mi scuso, se vogliamo di freddo però è un po' peggio. Allora, Ramella, gli autori del rapporto pongono, uno dei problemi centrali che pongono è quello: non vale il criterio chi inquina paga. E almeno ai miei occhi, ma qui è la mia natura e cultura produttivista, come ovvio che obietta, è ovvio, secondo me, da un certo punto di vista, che le imprese in alcuni settori molto energivori abbiano avuto nel tempo un occhio di riguardo da parte dello Stato. Io le chiedo, primo, cosa ne pensa lei della disaggregazione in base al fatto chi inquina deve pagare nel nostro paese, visto lo squilibrio in cui il più del pagamento rispetto a quinquina sta sulle spalle delle famiglie, non vale questo principio. Ma secondo, a questo poi si aggiunge anche l'effetto, tra le 444 detrazioni e deduzioni che sono ufficialmente censite nel nostro paese, di un bel corpo di detrazioni e deduzioni, cioè di sconti fiscali, che sono riservati esattamente ad attività poi più o meno, ma anche molto o moltissimo inquinanti. Ecco, come si tiene insieme questo principio dell'equità rispetto ai costi beneficio, cioè dell'effetto economico, per cui non vale, e secondo me è anche abbastanza giusto che non valga, il principio chi inquina di più paga di più, e dall'altro ha ancora un senso quella foresta di detrazioni e deduzioni per i settori del trasporto, per molti energivori e così via? Dunque, diciamo che complessivamente il dato che emerge è che in realtà chi inquina paga. Complessivamente le entrate ambientali superano i costi generati, quindi se guardiamo la totalità il principio è rispettato. Invece, come si diceva prima, ci sono dei divari significativi per i vari settori. Quello che credo sia più interessante è quello dei trasporti da un lato e quello dell'agricoltura dall'altro. Diceva prima Tapparelli, riferendosi al riscaldamento, che noi lo tassiamo molto, ma lo stesso discorso lo possiamo fare sull'uso dell'auto. Sì. Per la maggior parte degli spostamenti in realtà l'auto non ha alternative. L'auto copre circa l'85% della domanda e noi tassiamo moltissimo persone, spesso a reddito basso, che non hanno alternativa all'uso dell'auto. E oggi abbiamo un livello di prelievo che è da 2 a 3 volte quello che è il danno generato. E al contrario, nel caso dell'agricoltura che è stato evidenziato, che è quello dove il divario è maggiore, solo un 5% dei costi che sono generati vengono coperti con tassazione, e quindi secondo me l'idea di andare a ridurre i sussidi ai settori che generano maggiori esternalità è una idea condivisibile. Sul problema dell'industria molto energivore sicuramente c'è un problema di competizione tra paesi. Se lo facciamo solo noi, evidentemente c'è un problema di perdita di competitività, industrie che lasciano il nostro paese. Questo è un po' il problema che si ha soprattutto sul tema del cambiamento ambientale. Ci dicono gli economisti che l'approccio migliore è quello della carbon tax, e però c'è un problema se la carbon tax la applichiamo solo noi. Spieghiamo in 2 parole la carbon tax, in cosa consiste per chi ci ascolta. La carbon tax è un prelievo fiscale che va a compensare il danno dovuto alle emissioni di anidride carbonica, e il criterio di agire in questo modo con un prezzo e non con vincoli o con sussidi è del tutto condivisibile. È interessante una recente analisi che ha fatto un economista americano, Nordhaus, e ci dice che la politica ottimale sarebbe quella di applicare a tutti i settori una tassa che parte dai 30-40 euro tra una decina di anni e arriva fino ai 100 euro a fine secolo. E questa sarebbe la soluzione che, diciamo, ottimizza da un lato l'aspetto ambientale e dall'altro quello economico. Se noi guardiamo sui trasporti, noi abbiamo già oggi una tassa sul carburante che è di 300 euro. Quindi paghiamo 3 volte quello che è il danno dal punto di vista dei cambiamenti climatici. Insomma, è un bancomat di Stato. Allora, è un bancomat di Stato, come diceva Tabarelli, lo sappiamo benissimo, ma lo Stato dice sì, è un bancomat, io del bancomat ho bisogno. Questa è la questione diversa, e questo dopo la pausa, adesso che facciamo per vedere cosa succede in borsa con un po' di pubblicità, è capire che con quali finalità rimettere mano a questa tassazione. Per un paese che, oltre, se parliamo di energia, oltre al danno ambientale, alle esternalità negative dei processi di generazione e trasformazione dell'energia, è dipendente in una percentuale elevatissima del suo fabbisogno, è dipendente con costi comparati che sono ancora oggi, oimè, poco competitivi per le imprese, come diceva Tabarelli. Ecco, e se uno dovesse immaginare un intervento ottimale rispetto a questo 3,6% di PIL nel frattempo cresciuto dal 2013, quindi come si vede, di tassazione ambientale, quali dovrebbero essere le vere priorità per fare una valutazione ex ante di dove mettere le mani, in vista di quali obiettivi? Intanto andiamo in borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare degli spunti contenuti su questo rapporto redatto dall'ufficio di valutazione di impatto del Senato su quanto raccoglie lo Stato da imposte dirette e indirette a fini ambientali. Abbiamo visto, erano 3,1 punti di PIL nel 2013, siamo arrivati a 3,6, quindi stiamo parlando di oltre 50 miliardi. Criterio chi paga quanto tra famiglie, imprese industriali, agricoltura, rispetto alle esternalità negative che generano, le famiglie pagano di più, osservando questo rapporto. Abbiamo visto come pesino poi anche molti incentivi fiscali su alcuni dei soggetti e delle filiere che hanno un maggiore impatto ambientale, e abbiamo visto anche che in realtà di questo gettito solo una parte incommensurabilmente piccola va a spese e investimenti per l'ambiente. Gli autori del report alla fine propongono degli interventi nelle loro conclusioni e propongono di eliminare o ridurre proprio le spese fiscali, cioè le detrazioni e le deduzioni dannose per l'ambiente. Leggo nella loro proposta l'esenzione dell'accisa del combustibile usato al trasporto marittimo e aereo, e io a quel punto aggiungo subito, già vedo però l'immediato intervento, se avvenisse, dei rappresentanti del trasporto marittimo e aereo, per dire vabbè, e allora però ci volete levare dal mercato se ci levate questo incentivo fiscale. Poi aggiungono gli autori, valutare eventuali distorsioni ambientali delle agevolazioni IVA. E per spiegarci, queste distorsioni, secondo gli autori, si verificano quando l'agevolazione è riconosciuta a prodotti che hanno elevate esternalità negative, l'elettricità e il gas, in quanto i costi ambientali per la collettività della loro produzione erodono gli eventuali benefici dell'agevolazione. E così via. Questi sono gli elenchi che fanno, che sono elenchi, diciamo, che al decisore politico che le volesse assumere produrrebbero una durissima reazione, come sempre. Nel nostro paese noi abbiamo avuto... E noi abbiamo il numero di detrazioni e deduzioni più elevate di tutti i paesi OCSE, cioè non c'è un fisco che rinunci a quasi 200 miliardi di euro, una cifra insomma tra i 170 e i 180 miliardi di euro stimati per effetto di quelle 444 deduzioni, di cui quelli che riguardano le persone fisiche sono solo 155, quelli che riguardano poi il corcio, cioè e la famiglia, un'ottantina. Però non ce n'è un altro paese al mondo che abbia un fisco così discrezionale nel graduare gli aiuti fiscali. Negli altri paesi certo che ci sono deduzioni e detrazioni, ma non oltre 400. Naturalmente noi siamo un paese che ha preferito percorrere la strada di un'altissima tassazione da una parte, e dall'altra la discrezionalità della politica, identificando i soggetti con cui trattare gli aiuti, ed è così che si crea poi la giungla fiscale. E arrivando alla fine delle proposte, il rapporto di cui parliamo ne identifica tre aree di intervento: riduzione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente, e lo abbiamo visto gli esempi che fanno; secondo, ulteriore riduzione del tetto comunitario per le emissioni ETS, evitando l'allocazione gratuita dei permessi a specifici settori, e il mercato secondario dei certificati di credito, per così dire, che corrispondono a quote di emissioni. E l'introduzione della carbon tax, l'abbiamo vista con Ramello, e la riforma della fiscalità ambientale, che secondo gli autori dovrebbe essere realizzata con l'introduzione graduale di imposte su specifici inquinanti e sull'estrazione di risorse naturali scarse. Che dice Tabarelli di questo set di proposte? Che fa parte di questa discussione nel mondo ambientalista circa i danni ambientali. Anche l'autore dello studio quantifica i danni ambientali, ma la cosa è molto difficile perché non esiste un prezzo internazionale dell'esternalità. Giustamente prima è stato citato che il costo sul gasolio della tassazione equivale a un 300 euro per tonnellata di CO2 ridotta. ricordo anche che il prezzo attualmente sul mercato internazionale dei permessi della CO2 dell'ETS, Emission Trading System, un sistema che è un vanto dell'Europa, che è la prima delle classi al mondo per fare politica ambientale, il prezzo è 7 euro. E, perciò è una discussione questa che va avanti 7 da molto. Rispetto a 300, ecco, per darvi... Ecco, 300. non riesco a resistere alla tentazione di dire che gli incentivi alle fonti rinnovabili, che sono stati molto generosi in Italia, anche qua noi siamo i primi della classe a parità di PIL italiano, vanno a fare delle riduzioni, in particolare sul fotovoltaico, con dei costi che vanno oltre i 500 euro per tonnellata di CO2 ridotta, e pertanto invece il prezzo è 7. Queste azioni fanno parte, non so, ecco, per il ridurre quello che chiamano sussidi al trasporto aereo. Io fra l'altro domani prendo un aereo, insomma, se voglio pagare potrei pagare, fra l'altro, ma il trasporto aereo è una delle cose che cresce di più per il turismo, in particolare per l'Italia. In tutto il mondo non c'è tassazione del kerosene che serve per far andare gli aerei. Ovviamente lo sanno anche gli autori di questa proposta, però a livello internazionale questo è un problema. Allora, ma perché io dico, noi in Italia che abbiamo il prezzo della... Che abbiamo il prezzo, si è interrotto, e approfittiamo dell'interruzione mentre naturalmente ripristiniamo il collegamento con Tabarelli. Io faccio la stessa domanda a Ramella: che impressione ha di questo set di proposte, Ramella? Ma largamente condivisibile, dove dice di togliere i sussidi, dove dice di cercare di armonizzare. Uno dei punti che vengono sollevati, che invece lui parlava prima, del fatto che le tasse non vengano destinate al settore ambientale, ma in realtà dal punto di vista del principio del chi inquina paga, una volta che le penalità siano state internalizzate, non è più efficiente e neanche equo intervenire con sussidi o con altre misure. Penso ad esempio al mio campo, quello dei trasporti. Quando noi abbiamo internalizzato, l'abbiamo fatto addirittura in modo eccessivo, l'esternalità dell'utilizzo dell'auto, non ha più ragione d'essere il sussidio per ragioni ambientali, ad esempio i trasporti collettivi o le ferrovie. Noi spendiamo ogni anno tra spesa corrente e conto capitale 17 miliardi e motiviamo questa spesa spesso con ragioni ambientali. In realtà, sia dal punto di vista dell'efficienza che dell'efficacia, sono spese del tutto ingiustificate. Se noi facciamo delle analisi sul costo di abbattimento in questo settore, vedremo che non vi è più ragione nello stato attuale di adottare queste politiche. Quindi si possono aggiungere molte riflessioni anche sul lato della spesa. Altro che, naturalmente qui io avrei un grande socio di Confindustria, cioè Trinità delle Ferrovie dello Stato, che mi impiccherebbe seduta stante, perché come è noto, ecco, all'IBL ne sappiamo qualcosa. Io semplicemente stiamo facendo delle domande, cari amici di Trinità delle Ferrovie, e io naturalmente il mio collo è sempre proteso, non c'è nessun dubbio, lo so che un giorno la lama verrà, però io avrò tentato di esporre anche il vostro punto di vista, come avete appena sentito. Naturalmente io sono d'accordo con quello che ha appena detto Ramella su quei 17 miliardi, però è la mia opinione personale. Dobbiamo ricominciare con Tabarelli, che era arrivato all'esempio "domani prendo l'aereo ma", però lo facciamo dopo che appunto sentiamo cosa succede sul traffico strade. La versione di Oscar. Allora, ricapitolando, il solco tracciato nelle conclusioni da questo rapporto da cui siamo partiti, prima abbiamo spiegato i dati illustrativi che vengono approfonditi, però alla fine il problema tradotto, le misure che vengono proposte, è quello di aumentare il gettito netto dello Stato. Questo è il punto, aumentarlo anche considerevolmente. Allora, Tabarelli stava dicendo: io domani prendo un aereo, certo, volendo posso pagare di più, ma... Ma possiamo, insomma, è un problema internazionale, il turismo viaggia con gli aerei, tutto il mondo non è consentito tassare i carburanti per il trasporto, perciò ovviamente ne sono consapevoli anche gli autori di questa ricerca. Io ricordo che l'Italia è il paese che paga la benzina il gasolio più alto d'Europa per la tassazione più alta d'Europa, tenendo conto delle facendo una ponderazione fra i due. Ricordo che negli Stati Uniti il paese che consuma più benzina e jet fuel per il trasporto aereo praticamente non ha tassazione sulla benzina. Però gli autori del rapporto che cosa fanno in tralice? Dicono: ma se è la stessa strategia energetica del governo a dirci che per fare il phasing out dal carbone, dagli 8 gigawatt di carbone, servono interventi di 16-19 miliardi, da qualche parte dovremo pur prenderli, non in deficit, e allora aumentiamo il gettito complessivo. Sottinteso, mi sbaglio? Questo è un po' il loro ragionamento, perché alla fine dicono queste cose a cosa servono? Servono. Sì, però ovviamente non bisogna fare questi calcoli a livello di economia chiusa. Oh. Noi siamo sempre più internazionali. Se no, ci diamo la zappa sui piedi. Niente, c'è la linea telefonica di Tabarelli che su questo non coopera. Che dice Ramella? Negli altri paesi si fa una prospettiva comparata intervenendo sulle aliquote sull'energia per misurare l'effetto in un'economia aperta che può avere un regime di tassazione troppo pesante rispetto ad altri più leggeri, oppure no, Ramella? Qualcuno ha tentato, ma il problema che si diceva prima con riferimento all'industria energivora e che adesso ha ripetuto Tabarelli sul carburante c'è e nessuno in realtà l'ha risolto. Ecco, quindi innanzitutto non è facile dal punto di vista econometrico avere un modello statistico in cui si aggregano e comparano degli indicatori realmente affidabilmente comparabili per poi fare un modello e arrivare a delle conclusioni. Riprendiamo con Tabarelli. Il mondo mentalista dice appunto servono più risorse per gli investimenti necessari per Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il problema è proprio questo, che il mondo ambientale che sta preparando anche questo piano ambiente clima per quello che era previsto dalla COP21 di Parigi spinge per aumentare la tassazione, in sostanza poi per avere più risorse da destinare a cose virtuose, cosa che noi in realtà in Italia abbiamo già fatto, stiamo facendo, siamo, come dicevo prima, accennavo prima per le rinnovabili, ma soprattutto abbiamo la tassazione sull'energia più alta, ma in ogni caso, anche se non fosse così, dobbiamo fare queste cose stando attenti a quello che accade negli altri paesi, a non penalizzare le nostre merci. L'unica parte del nostro PIL che cresce è la parte delle esportazioni. Se andiamo ad aumentare i prezzi delle nostre esportazioni, ovviamente facciamo un danno. Tuttavia bisogna ricordare che anche in Italia poi i nostri consumi sono bassi, c'è una tendenza a vedere le nostre industrie come solo fonte di inquinamento, di danno ambientale, se non di cose peggiori. È tutto un sistema economico che si sta deindustrializzando, noi dobbiamo casomai, quello che io adesso esagero di nuovo, quello che accade negli Stati Uniti, che c'è una crescita forte, una delle ragioni sono i bassi prezzi dell'energia, una delle ragioni della delocalizzazione, del boom economico, c'è la Cina che si sta comprando tutto il mondo, grazie alla liquidità che ha incassato l'esportazione, è il basso costo dell'energia, è il prezzo del carbone che è consente di produrre elettricità a 5, cioè darla alle sue industrie a 5 centesimi. Noi con tutti sti oneri, questi bla bla bla, che sono importantissimi per carità ambientali, diamo l'energia alle nostre imprese a 20 centesimi. Poi facciamo i pastrocchi che gli diamo indietro un po' con queste sussidi che vengono giustamente chiamate in questi studi, sussidi all'industria perché restituiamo un po' agli energivori, cosa che però la Germania ha fatto da tempo. Senza andare in Cina, la nostra vicina Germania, che fa ancora 5 milioni di auto, non ricordo quante poche ne facciamo noi, le fa con l'elettricità che è ancora un 40%, non è nemmeno il carbone, è ancora la lignite, che è la cosa ancora peggiore del carbone, oltre ad avere ancora parecchie centrali nucleari. Poi certo ha fatto delle rinnovabili, però fare queste cose nel nostro cortiletto, quando le nostre povere, dico non povere, mi auguro che non lo siano, ricche imprese, esportano, sono brave, dimenticandoci di queste cose è una follia, perciò ben venga questa discussione, ragioniamoci, ma stiamo attenti al nostro sistema industriale, che è quello che sta soffrendo di più, quello che negli ultimi 100 anni ci ha portato ricchezza. Allora, due strade, vi chiedo un sì o un no, sono anch'io radicale, la sintesi è impropria, però per andare avanti e accettare nuove tecnologie, l'abbattimento delle emissioni, dell'impronta ambientale, cioè, ci sono due strade. La strada, diciamo così, di una parte tradizionale, ma molto forte, in politica anche molto forte, in quella italiana ma quella internazionale, che dice più risorse, quindi più gettito, perché così lo Stato avrà più risorse per investire. Nel nostro paese l'altissima tassazione, io dico l'esatto contrario, cioè la vera riforma dell'imposizione sull'energia è molto meno peso per lasciare margini agli investimenti da cui poi si ottiene il miglioramento dell'impronta energetica del nostro patrimonio immobiliare, come un più rapido tasso di sostituzione del parco circolante dei veicoli del nostro paese, e anche in quel caso significa minori emissioni. Su questa secca, improbabile, troppo sintetica alternativa, come la pensa Ramella? Sì o no? Il primo o il secondo? Direi di sì, ma ci siamo, in realtà il quesito direi che non si pone nemmeno, perché siamo già, almeno in alcuni settori come quello automobilistico, ad un livello eccessivo, quindi non c'è dal punto di vista ambientale giustificazione né ad un ulteriore aumento né a altri interventi. Eppure, eppure domanda per Tabarelli finale, lo sappiamo benissimo che da quel mondo viene per esempio un esempio, cioè noi dobbiamo tra virgolette incentivare, visto che degli incentivi all'auto, al rinnovo del parco circolante siamo praticamente usciti, mentre altri paesi, grandi paesi europei, Francia e Germania, sono andati a un ritmo molto più elevato del nostro in questi anni, per il parco auto più tasse dall'auto per dare poi più incentivi all'acquisto di auto elettriche. Cosa direbbe Tabarelli su questo? Che ormai è una follia, mi auguro che sia una follia da paese ricco che ha la paese da pancia piena, ecco. Sicuramente è quella delle elite, purtroppo nel nostro paese c'è un non sacco di gente che soffre. Ecco, sono d'accordo con queste due conclusioni, grazie a Davide Tabarelli e a Francesco Ramella, continuate con Radio 24, ora con naturalmente Focus Economia, e domani mattina alle 8:15 con me Luca Tallese, 24 mattino e pomeriggio come sempre in diretta la versione di Oscar.